Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Bene oggi le borse, una volta tanto partiamo con le borse in netto rialzo, più 2,8% Francoforte, più 1,90% Parigi, più 2% Londra e 2,5 punti li sta guadagnando in questo momento l'S&P MIB a Milano, l'1,90% è rialzo invece del MIBTEL. Molto forte oggi Telecom Italia, più 9%, Impregilo più 8,90%, Fiat più 8,80%, L'Espresso più 8,36%, Ubibank più 5,90%, Italcementi più 5,6%, Unicredito torna a 1 euro per azione, guadagna il 5,3%, Intesa rivede la soglia quasi dei 2 euro per azione, più 4,1%, Alleanza più 3,20%, Banco Popolare più 3,20%, Luxottica più 3%, Autogrill più 2,80% come Pirelli. Chi cede? Poca roba, A2A perde il 2,1% e il resto si chiama Buzzi Unicem che perde lo 0,6% come Finmeccanica e come Terna. Poi Tenaris cede lo 0,3%, quindi molto bene il settore bancario, ma anche Fiat, il settore telefonico e le assicurazioni, oltre che titoli come Luxottica e Autogrill. Vedremo di capire perché nel corso dei mercati finanziari. C'è anche l'effetto dei Tremonti Bond, ma attenzione, i rialzi sono generalizzati a tutta Europa. L'America sta guadagnando un po' meno, l'1,1%, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,6%. L'euro sul dollaro è a quota 1,2760, quindi sempre sotto il livello di 1,30. Nei confronti della sterlina siamo sempre a 88-89 pence per un euro. Parleremo in apertura dei Tremonti Bond, ma anche dei piani complessivi lanciati a livello europeo, a livello mondiale. Barack Obama è appena tornato sull'aspetto della sanità per quello che riguarda il suo piano, spiegando, lo ricordavano anche i nostri GR, che i soldi verranno reperiti tassando i redditi più alti, quelli sopra i $250,000. Nel frattempo abbiamo avuto anche altre dichiarazioni, a partire da quelle del ministro Tremonti, sull'ammontare dei derivati, dei prodotti derivati in giro per il mondo. La cifra fa spavento, sono 12 volte e mezzo il PIL mondiale i derivati presenti che sono in circolazione. Mentre come apertura, trattando appunto delle misure prese dai governi e anche di quanta roba eventualmente tossica possa essere ancora in circolazione, riprenderemo quanto scritto oggi da Sole 24 Ore, ossia che nell'ultimo anno le iniziative dei vari paesi, Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Giappone, per sostenere il mondo finanziario, bancario e comunque l'economia, sono state pari a tutti gli introiti che le privatizzazioni hanno generato nel mondo nell'ultimo secolo. Quindi una cifra colossale. Praticamente in un anno il mondo, le economie occidentali si sono bruciate i risultati delle privatizzazioni degli ultimi 100 anni, e non è cosa da poco. Poi parleremo della borsa, come sempre, avremo anche un approfondimento per quello che riguarda il settore della pasta, dove è arrivata una multa molto pesante dell'antitrust, l'accusa è di aver fatto cartello sui prezzi. Sentiremo anche qual è la risposta dei pastai, e nella seconda ora del programma ci occuperemo del tema molto italiano, in questo caso la riforma dei diritto di sciopero. Il ministro Sacconi oggi ha chiarito che la riforma delle regole per scioperare nel settore dei trasporti pubblici, di questo ha parlato Sacconi, sarà operativa tra un anno, ma insomma tensioni con la CGIL che ha detto il governo stia attento alle forzature. Comunque, di questo parleremo in maniera più approfondita alle 18:10. 349-238-6666 è come sempre il numero per i vostri sms. Continua a calare l'Euribor, il tasso interbancario che le banche dovrebbero utilizzare per calcolare poi lo spread sui mutui a tasso variabile, i prestiti a tasso variabile in generale. Oggi ha toccato un nuovo record, un nuovo minimo storico all'1,84%. Il petrolio è in rialzo, $43 al barile. Il dato oggi brutto perché riguarda l'Italia, si chiama commercio con l'estero. È uscito il dato di gennaio su come sono andate le nostre esportazioni fuori dall'Europa, meno 30% rispetto a quanto avevamo fatto a gennaio del 2008. Pesano tantissimo gli autoveicoli, meno 50% quasi, 49%, ed è il crollo nelle esportazioni fuori dall'Europa, quelle che si chiamano esportazioni extra UE, peggiore dal 1993. Visto che poi di solito volete sapere anche dove vanno peggio, molto male verso l'America, immaginabile con la crisi che sta attraversando gli Stati Uniti, meno 40% il nostro export a gennaio rispetto a un anno prima, meno 20% rispetto al Giappone, meno 27% anche rispetto alla Cina e meno 22% rispetto ai paesi produttori di petrolio e meno 41% verso la Russia. I settori che hanno più sofferto si chiamano, oltre ai mezzi di trasporto, i mobili, meno 36%. Immobili meno 36% e la chimica meno 41%, anche la meccanica un segno meno pesante, 27%. Tiene invece l'alimentare, che cala meno della media, meno 17%, comunque, come l'abbigliamento, meno 18% anch'esso. Vedo già alcuni messaggi. Parleremo della multa da 12 milioni e mezzo di euro a un insieme di società produttrici di pasta, accusata di aver fatto cartello sui prezzi. La dizione esatta è aver posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza finalizzata a concertare gli aumenti del prezzo di vendita della pasta secca di seme, alla pasta, insomma, diciamo, quando poi veniva fornita al settore distributivo. Tra l'altro è stato multata anche l'Unione Industriale Pastai Italiani, non solo le varie De Cecco, Di Vella, Garofalo, Nestlé, Del Verde, Granoro, insomma ci sono un po' tutti dentro, ma anche l'Unione che li rappresenta. Gli scioperi, domani in Consiglio dei Ministri arriverà la bozza di riforma dello sciopero nel settore dei trasporti pubblici. C'è stata un po' di confusione anche su alcuni giornali oggi su questo tema. Riforma messa a punto dal Ministero del Lavoro. I sindacati che non raggiungono il 50% potranno indire uno sciopero solo dopo aver indetto un referendum consultivo tra i lavoratori, e ogni lavoratore dovrà dichiarare preventivamente l'adesione allo sciopero. Viene introdotto anche lo sciopero virtuale per alcuni servizi, che per alcuni servizi essenziali potrebbe diventare obbligatorio. E ancora, insomma, lo sciopero virtuale funzionerebbe così: chi sciopera perde la giornata lavorativa ma va al lavoro e la retribuzione verrà devoluta insieme a una somma che versa l'azienda a scopi sociali. Alto là del leader della CGIL Epifani, che ha detto al governo stia attento a evitare forzature. Il governo stia attento. Se c'è da aggiustare qualcosa di una normativa pure rigida che abbiamo, eventualmente questo lo si può vedere. Se si vogliono introdurre forzature che limitano poteri, prerogative, allora è un'altra questione. E ha risposto il ministro welfare Sacconi al leader del CGIL Epifani. Sacconi ha detto: non c'è nessuna forzatura, ma non vogliamo nemmeno subire dei veti. E al microfono il nostro Andrea Viali, a margine della presentazione della relazione annuale della Commissione di Garanzia sugli scioperi, ha anche ricordato che queste ipotesi di modifica sono frutto di un confronto con tutte le parti sociali. Beh, cambia rispetto alle linee guida sulla base delle quali abbiamo fatto la consultazione con le parti sociali il fatto che ci concentriamo essenzialmente nel settore del trasporto e quindi, come ho detto, nel diritto alla mobilità. Stiamo in queste ore valutando questo aspetto. Il referendum potrebbe venire meno in presenza di un requisito minimo di rappresentatività degli attori proclamanti. Lo sciopero virtuale può essere reso obbligatorio solo in alcuni ambiti particolarmente delicati del trasporto. Credo che ci sia una larga convergenza con la gran parte delle organizzazioni sindacali, oltre che dei datori di lavoro, perché non a caso abbiamo recepito molte delle indicazioni che sono venute in modo particolare dalla CISL, dalla UIL, dall'UGL, dalla CONFSAL, dalle altre organizzazioni. Mi auguro che la CGIL dia almeno un giudizio articolato. Adesso entriamo nel tema di quanto sta costando nazionalizzare le banche e le grandi imprese. Ripeto, da quando, se vogliamo, dal secolo scorso, ora alcuni di voi hanno detto mamma mia un secolo, attenzione, siamo nel ventunesimo secolo, il secolo scorso dal ventesimo, però per essere ancora più chiari, da quando è iniziato il grande processo di privatizzazioni che segna la nascita dell'approccio, dell'ideologia neoliberale, quindi da fine degli anni 70 in poi, Reagan, la Thatcher, ne abbiamo già parlato, il mercato libero è sempre più libero, ecco, tutti i guadagni dal 77 in poi sono stati bruciati in un anno di rinazionalizzazione. Un po' di pazienza e ci arriviamo al tema. Rapidamente, per quello che riguarda invece i dati americani, l'America dovrebbe a questo punto, secondo quanto indicato oggi dalle cifre del bilancio americano presentate a Washington, tornare a crescere nel 2010, è una crescita anche robusta del 3,2%, ma il presidente Obama oggi ha detto che vuole dimezzare il deficit americano entro il 2013. Ha già individuato risparmi possibili per circa 2.000 miliardi di dollari e poi ha definito onesto il suo budget, ossia la sua legge finanziaria, ha chiesto sacrifici e rinunce perché ha detto dovremo rinunciare a cose che ci piacciono ma che non ci possiamo permettere, e ha definito storico l'impegno verso la sanità perché alla fine potrebbero arrivare oltre 640 miliardi per la sanità, appunto anche tassando i redditi più alti. E poi è arrivata un'ipotesi di un ulteriore maxi salvataggio del sistema finanziario che costerebbe altri 750 miliardi di dollari. Queste sono le prime indiscrezioni sul budget. Budget per Obama vuol dire l'equivalente della nostra legge finanziaria, che appunto Obama oggi presenterà al congresso. Una buona notizia dalle banche americane, una cosa rarissima ormai. JP Morgan, che è una delle banche che è stata poco toccata dalla crisi, chiuderà i primi tre mesi dell'anno con risultati buoni. Questo però non le farà evitare i licenziamenti, infatti taglierà 12.000 posti di lavoro. E invece continua a sprofondare Royal Bank of Scotland, che ormai ha registrato nel 2008 una perdita record di 27 miliardi, sono un paio di manovre finanziarie di un paese come l'Italia, è la più alta perdita mai registrata da un'azienda in Gran Bretagna, nella storia della Gran Bretagna, inferiore però alle attese ancora peggiori degli analisti, questo grazie ad alcune svalutazioni sull'acquisto di ABN AMRO. Comunque io ricordo che la Royal Bank of Scotland, che era la seconda banca britannica, è stata nazionalizzata di fatto, visto che il 70% del capitale ce l'ha lo Stato britannico, e Stato britannico che butterà dentro altri 13 miliardi di sterline sotto forma di azioni speciali, quindi altri 15 miliardi a spanne di euro, però essendo azioni speciali come da noi le privilegio, non costituiranno un aumento della quota dello Stato nel capitale, quindi verrà lasciata, forse anche per salvare la faccia come foglia di fico, un 30% ancora di privato a una banca il cui 70% appartiene allo Stato. E però, nel diario della crisi, il governo britannico ha chiesto all'ex numero uno di Royal Bank of Scotland, Fred Godwin, se può rinunciare alla sua attuale pensione, perché se n'è andato un anno fa, poi la banca è crollata, è fallita di fatto, se l'è comprata lo Stato britannico, Ma Godwin si piglia 650.000 sterline, cioè anche qui a spanne 700.000 euro all'anno di pensione. Non è poco, diciamo che ce la dovrebbe far arrivare a fine mese. E lo stesso cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro dell'economia britannico, Alistair Darling, ha scritto a Godwin dicendo: credo che la gente troverà difficile capire come tu possa ricevere 650.000 sterline l'anno per il resto della tua vita quando la banca che dirigevi è in una condizione fallimentare. Anche perché Godwin se n'è andato a 50 anni, per cui è un baby pensionato miliardario. E vabbè. Nel frattempo cambio ai vertici di UBS, che è la più grande banca svizzera, anch'essa travolta dagli investimenti azzardati che ha compiuto. Se n'è andato con effetto immediato il vecchio amministratore delegato Roener ed è arrivato il nuovo Oswald Grubel. Ultima notizia di banche: Allianz chiude il 2008 con 2 miliardi e mezzo di perdita, ma distribuisce il dividendo di 3,5 euro. L'anno scorso aveva chiuso il 2007, scusatemi, aveva chiuso il 2007 con 8 miliardi di utile e invece il 2008 si è chiuso con 3 miliardi e mezzo di perdita, con 2 miliardi e mezzo di perdita. Però le perdite di Allianz sono dovute soprattutto a quelle registrate dalla controllata Dresdner Bank. E poi c'è questa nota interessante, visto che Allianz dovrebbe essere il primo gruppo assicurativo in Europa, quindi non stiamo parlando di una società minore. Ebbene, questo gigante assicurativo ha detto: non possiamo fare previsioni per il 2009 perché i mercati sono troppo turbolenti. Va bene, restiamo in tema di crisi globale. Quanta roba c'è ancora in giro? Secondo il ministro Monti è tantissima, è tantissimo il volume dei derivati, ma soprattutto quanto ci stanno costando queste nazionalizzazioni di fatto, anche se molti preferiscono non chiamarle nazionalizzazioni, si possono chiamare Maria, Rosa, come volete voi, ma questo sta capitando a livello mondiale. Quanto ci stanno costando e se non si rischi di andare un po' troppo oltre nel rinazionalizzare tutto. 349-238-6666 per i vostri sms. La roba robaccia in giro è ancora tanta. Ora, dire che tutti i derivati sono tossici è a mio avviso azzardato e crea confusione e allarmismo negli ascoltatori. Però è chiaro che in questo momento i derivati non godono di grande stampa. Sentite che cosa ha ricordato oggi il ministro Tremonti nel corso di un'audizione alla Commissione Affari Esteri della Camera del Senato proprio sul volume dei derivati, dei prodotti derivati ancora presente nei mercati mondiali. Almeno dal 2000 in poi, in una progressione impressionante, i derivati non hanno più una funzione assicurativa relativa a un'operazione reale, diventano operazioni speculative fine a se stesse. In questo momento il volume nazionale dei derivati è pari a, secondo i dati del Congresso degli Stati Uniti d'America, ma anche secondo i dati della Banca dei Regolamenti, è 12 volte e mezzo il PIL del mondo. La differenza di partite, diciamo nettizzando gli importi nazionali, è secondo alcuni 30, secondo altri 40 trilioni di dollari. Il piano della presidenza americana è 1 trilione di dollari. Questo per dare una idea della degenerazione che è intervenuta nelle strutture del capitalismo con questa filosofia. Il punto è che non sai dove sono. E questo configura il cosiddetto rischio non calcolabile, che è la negazione del calcolo del rischio che è stata la base della civiltà industriale occidentale, segna il regresso al mondo dell'incertezza, che è una fase della storia dell'umanità. Questo per quello che riguarda le dimensioni di questi derivati. Franco Locatelli, editorialista del Sole 24 Ore, in collegamento ai nostri studi romani. Buonasera Franco. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, insomma, la cifra fa spavento, poi dentro questa cifra c'era la tesi che il ministro Tremonti ormai porta avanti da almeno un paio d'anni, da quando è uscito il libro Rischi Fatali, e cioè la deriva finanziaria, la crescita fatta col debito e non col lavoro, l'utilizzo degli strumenti della leva finanziaria non per ricoprirsi, non per dire nel caso mi vada male un investimento o... una leva o una ricopertura, quasi una specie di assicurazione, ma per fare i soldi con quella roba lì. Alcuni ascoltatori ci chiedono come funzionano i Tremonti Bond, adesso ci arriveremo. Vorrei capire, ribaltando diciamo, l'ordine iniziale, se di fronte a una cifra del genere, Franco Locatelli, cioè 12 volte e mezzo il PIL mondiale, se i rischi incalcolabili siano la vera mina vagante, più ancora di questi derivati. Voglio dire, se noi sapessimo dove sono e riuscissimo a dare un prezzo a questa roba, potremmo dire, va bene, hai perso il 90%, ma almeno sappiamo quanto hai perso. La sensazione è che non si riesca nemmeno a dire questo, Franco. Sì, penso che questo sia il problema. Cioè non sappiamo quanti siano i titoli tossici, dove siano... e come si possa fare per uscire da questo stato di incertezza. Credo che questo sia l'elemento cruciale che da un lato mina i mercati finanziari e dall'altro fa sparire e rende impossibile il recupero di fiducia che è alla base di ogni attività economica. Le cifre che ha portato oggi il ministro Tremonti mi pare che parlino da sole. Cioè siamo chiaramente di fronte a una patologia di un sistema finanziario e di una forma di capitalismo che, così come si è sviluppato dagli anni 90 a tutti i primi anni 2000, chiaramente non è più sostenibile. Questo è il problema. Vabbè, è venuto giù da solo. E il trilione, lo chiedete voi ascoltatori, sono 1000 miliardi. In inglese si usa trillion, come billion si usa per i miliardi, per cui la cifra è relativa alle migliaia di miliardi. Detto questo, i Tremonti Bond, poi veniamo al ragionamento su quanto ci sta costando la nazionalizzazione. Franco, tu ne hai scritto oggi sul Sole 24 Ore, il titolo è molto emblematico, se lo Stato compra il mondo, quanto ci sta costando e che rischi può portare passare come un pendolo da un eccesso di liberismo al mercato che si autoregola, la finanza, i geni della finanza in gemelli e gessati, però non vorremmo nemmeno vedere il panettone di Stato, ecco, per usare la vecchia espressione dell'IRI italiana. Dicevo, i Tremonti Bond, il direttore generale dell'ABI, dell'Associazione delle Banche Italiane, ha detto, Giuseppe Zadra, al microfono della nostra Chiara Di Michele, attenzione, le banche italiane sono assolutamente solide e questo lo hanno certificato tutti, dalla Banca d'Italia a altri soggetti. Sentiamo. Buono, assolutamente. Come ormai è certificato in tutti i modi, da noi, dalla Banca d'Italia, dal nostro Ministro dell'Economia, dalle grandi case degli analisti internazionali, dalla comunità europea, non so cosa volete di più. Quindi, tranquilla, l'ABI, ti chiedo, i Tremonti Bond, che però valgono 10 miliardi di euro e che funzionano così, la banca li richiede, in cambio paga un tasso tra il 7,5% e l'8,5%, in questo modo può aumentare la sua capitalizzazione, non c'è nessuna penale nel caso possa rimborsarli prima del tempo, però se chiede questi soldi, queste obbligazioni allo Stato, oltre che pagare un interesse tra il 7,5% e l'8,5% voluto dall'Europa, deve garantire di non stringere il flusso di credito alle imprese, alle famiglie e poi alla cassa integrazione, garantire accordi per anticipare i fondi alla cassa integrazione e poi nel caso di un lavoratore in cassa integrazione o con il sussidio di disoccupazione per 12 mesi gli viene sospeso il pagamento delle rate del mutuo. Questi sono e poi deve anche garantire una certa governance, come si chiama, un codice etico negli stipendi dei manager. Allora Franco, l'ABI dice le banche sono solide, però il Sole 24 Ore oggi scrive giustamente, a mio avviso, che forse la richiesta sarà più alta dell'offerta. Dove sta il vero? Ma le due cose non mi sembrano in contrasto, nel senso che certamente rispetto ai disastri che abbiamo registrato negli ultimi mesi di grandi colossi bancari nel mondo, soprattutto nel mondo anglosassone, in America, in Gran Bretagna, ma anche nella vecchia Europa, nel vecchio continente, penso soprattutto alla Germania, ma non soltanto, certamente le nostre banche sono più solide, non solo perché hanno una situazione patrimoniale sotto controllo, ma anche perché, avendo fatto un mestiere più tradizionale negli anni scorsi, cioè più retail, più gestione dei depositi e gestione ed erogazione del credito piuttosto che spensierate avventure finanziarie, certamente hanno accumulato meno rischi e corrono oggi meno rischi. Questo però non vuol dire che in una situazione di crisi mondiale non debbano ulteriormente rafforzarsi, ma rafforzarsi non in funzione semplicemente di un consolidamento degli istituti di credito, ma rafforzarsi per poter meglio e più rapidamente erogare credito all'economia reale. Questa non è una misura d'emergenza, qui non si tratta di salvare banche sull'orlo del fallimento perché non ce ne sono. Si tratta di dare più mezzi alle banche perché possano sostenere meglio l'economia reale. Questo è il punto. Hai ragione, nel senso che mentre nel caso di Royal Bank of Scotland, ma anche di Deutsche Bank, Hypo Real in Germania, se vado a memoria, Société Générale, si sono dovute salvare le banche in molti casi, qui si dà la possibilità alle banche di ottenere soldi liquidi per mantenere aperti i rubinetti del credito. Quindi diciamo che le due cose si tengono, e poi non c'è ancora una proporzione tale per cui, insomma, vediamo che in Germania, in Gran Bretagna, gli interventi dello Stato sono costati centinaia di miliardi sulle banche, in America addirittura siamo a più di un migliaio di miliardi, da noi si sta parlando di 10 miliardi, quindi le due cose così si tengono assieme. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per capire, chiarito come funzionano i Tremonti Bond, la richiesta, quale sarà i costi di questa nazionalizzazione, chiamatela come volete, ripeto, ma questo sta capitando a livello mondiale. Allora, Franco Locatelli, molti ascoltatori chiedono: ma quanto è costata fino adesso? È difficilissimo dirlo, perché solo in America si va da 2.000 miliardi di interventi, 2.000 miliardi di dollari di interventi da settembre-ottobre, però poi solo il fondo di garanzia federale per le banche ne vale altri 1.009, gli acquisti da parte della Federal Reserve di commercial papers di alto livello in dollari 1.800 miliardi, per cui la cifra può andare da 2.000 miliardi a, se buttiamo dentro anche le garanzie emesse, a 4.000, a 5.000. Tu oggi scrivi una cosa ancora più impressionante. Guardando solo quanto è costato, diciamo, acquisire e mettere le garanzie sui debiti bancari in generale al mondo, siamo a 1.500 miliardi di dollari, che sarebbe anche bassa rispetto all'intero piano Obama. Solo che questa cifra a quanto equivale, Franco Locatelli? Ma dunque, equivale in pratica a in un anno solo ad avere bruciato i proventi che gli stati hanno ricavato in tutta la storia delle privatizzazioni, cioè alle privatizzazioni che si sono realizzate soprattutto negli ultimi 30 anni, dalla Gran Bretagna ai diversi paesi europei, all'Italia compresa, e poi via via anche a paesi di altri continenti. Per esempio l'anno scorso ci sono state molte privatizzazioni in Cina, in Russia. Ecco, il fatto che in un solo anno, nel 2008, tra capitalizzazioni, acquisizioni di asset, prestiti e garanzie sul debito bancario, gli stati, al netto dei piani di stimolo fiscale, quindi questo è importante capire che parliamo solo di acquisizioni, ricapitalizzazioni e garanzie su prestiti bancari, gli stati abbiano impegnato 1.500 miliardi di dollari, è una cifra, è una realtà impressionante, perché appunto, come dicevo prima, in 12 mesi brucia tutte le privatizzazioni virtuose che sono state effettuate in oltre 30 anni. È pazzesco, nel senso che assieme quanto la Francia, 20.000 miliardi, la Svezia, 13.000, la Germania, 6.000, hanno guadagnato come paesi con l'inizio di quel grande processo storico, perché si usciva da, diciamo, dal boom economico della seconda, del post bellico, si veniva dalla crisi del petrolio e quindi della crisi delle domeniche a piedi, e si decise nel 77, prima come ideologia, poi come politica, che lo Stato dovesse uscire da molte imprese, e questo fu sì il neoliberismo della Thatcher, ma anche di Reagan, e poi in Italia, insomma, tutto questo ha fatto guadagnare gli Stati. Ebbene, tutto quello che gli Stati hanno guadagnato in questi 30 anni se lo sono bruciati in un anno. Perché se noi mettiamo assieme i 20.000 miliardi guadagnati dalla Francia, i 13.000 della Svezia, dicevamo, i 6.000 della Germania, i 1.200 miliardi che ha portato nelle casse dello Stato italiano privatizzare le ex banche, la Telecom, insomma tutto quello che apparteneva all'IRI, ce lo siamo dovuto ricomprare solo per salvare le banche, diciamo, nell'ultimo anno. E questo dà il senso, molto più di tante analisi, della dimensione di questa crisi, della velocità di questa crisi. 30 anni per incassare, un anno per dover rinazionalizzare. Domanda: esiste il rischio di buttare via, come si dice con una brutta espressione, il bambino con l'acqua sporca? Cioè, noi stiamo gli Stati stanno salvando proprio prima che sprofondino, prendendo per i capelli queste banche, queste, le industrie dell'auto, se no altrimenti si chiude, c'è la bancarotta e la tensione sociale va alle stelle. Ma non è che si rischi di nazionalizzare troppo adesso? Ma certamente questo rischio esiste sempre, e infatti nei giorni scorsi, quando si è cominciato a parlare di ipotesi di nazionalizzare le banche, mi sono sembrate molto opportune le precisazioni che sono valse a mettere in risalto il fatto che questa ipotesi non riguardava le banche italiane, perché le banche italiane, non c'è nessuna banca italiana ad oggi che si sappia che corra rischi di default. Sarebbe assurdo pensare di nazionalizzare banche che sono in grado di muoversi da sole. Però io credo che abbia detto bene ieri il presidente Obama quando nel suo discorso ha detto: qui ci dobbiamo rendere conto soprattutto di una cosa, che è finita un'epoca. Noi non siamo di fronte a una crisi congiunturale, siamo di fronte alla crisi di un modello di capitalismo che naturalmente sarà sostituito da un'altra forma di capitalismo, perché il capitalismo ha questa straordinaria capacità di rinnovarsi e di trasformare le crisi in occasioni di rinnovamento. Però bisogna rendersi conto che il modello di capitalismo degli ultimi 20 anni, basato principalmente sul debito, su un eccesso di finanza rispetto all'industria e alla manifattura, non è più sostenibile, e quindi bisogna provvedere. E infatti c'è chi parla da anni non di capitalismo ma di capitalismi, perché poi il capitalismo, diciamo, scandinavo c'entra poco col capitalismo delle tigri asiatiche, che c'entra poco con quello americano, con quello del welfare dell'Europa continentale e via così. Dopo le informazioni perché in viaggio, l'ultima domanda che ho per te è: se siamo d'accordo che questa crisi lascerà un cambiamento epocale, questo non è perché lo dicono i giornalisti o lo dice il Centro Studi Confindustria, lo dice Barack Obama, vediamo se verrà contestato anche lui a questo punto per essere, di essere troppo negativo e pessimista, ma se questa crisi è epocale e sarà epocale anche nei risultati, nelle conseguenze, non solo nel danno, la si può, cioè si può affrontare una rinascita, o per meglio dire un rinascimento, mi auguro, con la classe dirigente che in questa crisi ci ha portato? E non mi riferisco una volta tanto alla politica, mi riferisco anche ai manager, a coloro i quali sono nati, cresciuti, si sono affermati in un capitalismo finanziario o finanziarizzato che adesso è crollato sotto 3, 4, 5 mila miliardi di robaccia almeno. La domanda, Franco Locatelli, te l'ho fatta, la risposta: si può affrontare un nuovo capitalismo con una vecchia classe dirigente? Ma credo che la risposta ci venga da quello che sta succedendo negli Stati Uniti proprio di questi tempi. È evidente che di fronte a un disastro come quello che abbiamo sotto gli occhi sia necessario cambiare le regole, cambiare le politiche, cambiare le strategie, ma cambiare anche le facce. Naturalmente senza fare di ogni erba un fascio, ci mancherebbe. È evidente che chi anche in momenti di difficoltà riesce comunque a stare a galla e magari a consentire alla propria banca o alla propria impresa di fare utili, è evidente che non deve essere rimosso perché non ce ne sono le ragioni. Però io dico la verità che non solo l'impressionante cambiamento politico che abbiamo visto negli Stati Uniti con l'ascesa alla presidenza di Barack Obama, ma anche il rotolare di teste importanti di manager che erano alla guida dei giganti finanziari americani, credo che sia un elemento molto impressionante e anche molto educativo. Cioè, chi ha sbagliato deve trarne le conseguenze e lasciare le sue responsabilità e il suo posto. E anche le notizie che sono state in apertura, sono state date in apertura di trasmissione circa l'entità della pensione dell'ex numero uno di Royal Bank of Scotland, mi pare che facciano riflettere. Cioè, ha perfettamente 650.000 sterline all'anno e ha 50 anni di pensione. E il ministro dell'economia britannico, il cancelliere scacchiere Alistair Darling, gli ha proprio scritto: credo che la gente troverà difficile capire come tu possa ricevere 650.000 sterline l'anno per il resto della tua vita, quando il Royal Bank of Scotland, che fino a un anno fa guidavi, è in una condizione di fallimento di fatto. Insomma, vorrei anche vedere. Credo che i contribuenti, se mi si passa una battuta, potrebbero dire davvero del loro cancelliere, dello scacchiere, oh my darling, perché mai reazione tema, questa, è stata più opportuna. Questa sul tema, questa è una freddura molto britannica come battuta. Comunque, no, è importante quanto ricordavi. Attenzione, una volta tanto non stiamo parlando della classe politica. La classe politica avrà molte responsabilità, forse un omesso controllo in questi 20 anni, ne abbiamo già parlato con Massimo Gaggi, forse c'è stata anche una un'unione dei fini per cui la politica ha lasciato che le banche dessero credito a tutti, così la classe medio-bassa sentisse meno l'impoverimento, perché tanto comprava la vita a rate, la TV a rate, l'auto a rate, la casa a rate, e quindi ha levato un po' di controlli sul mondo del credito. Però insomma, se tu gestisci la banca e prendi qualche milione di dollari all'anno, la responsabilità diretta è tua, non è sempre della politica. Così come lo dico a chi scrive: non confondete manager che hanno, o imprenditori o manager di imprese che producevano manufatti e che al massimo hanno fatto ricorso alla leva per fare investimenti, con banchieri che si permettevano quello che abbiamo raccontato in questi 9 mesi. Prima o poi faremo una puntata su tutto questo così gran gugnol della crisi, il delirio degli dei dell'universo, dei signori dell'Olimpo, dove erano finiti. Comunque, grazie a Franco Locatelli, grazie a voi, editorialista del Sole 24 Ore. La borsa, in una bella giornata di borsa, una volta tanto a Milano, più 2,9% l'S&P MIB, più 2,2 il MIBTEL, più 2,5 Francoforte, più 1,80 Parigi, più 1,70 Londra. L'America sta un po' ritracciando, più 0,7%, molto forte Fiat. Iniziamo quindi a parlare di borsa con Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Più 9,50, torna a 3,80 Fiat. Che è successo? Ma Fiat fin dalle prime battute è stata un titolo protagonista di questa seduta di Piazza Affari. Come dicevi tu, il titolo torna a mettere nel mirino quota 4 euro, ha chiuso a 3,8 con un rialzo del 9,5%. Non c'è stata nessuna notizia particolare, secondo gli operatori si tratta di un flusso di ricoperture sul titolo dopo che le quotazioni dal 9 febbraio avevano perso il 26% del loro valore. C'è da dire che a sostenere il settore anche negli Stati Uniti da 2 giorni sono arrivate le rassicurazioni del presidente Barack Obama, che ha detto che gli Stati Uniti non lasceranno fallire il settore auto e che anzi puntano a rilanciarlo e a renderlo sostenibile nel tempo, settore auto di cui ovviamente fa parte anche Chrysler, che di recente ha concluso un accordo proprio con il gruppo Fiat, e quindi le buone notizie provenienti anche dagli Stati Uniti hanno sostenuto il titolo. Sì, devo dire che dopo Lehman Brothers, dopo quell'errore clamoroso che ha accelerato la crisi, cioè lasciare fallire Lehman Brothers, e alcuni sostengono che hanno fatto più danni gli scatoloni degli impiegati che uscivano dal grattacielo che non tante analisi quanto a generare il panico, da allora in America non si vuole più far fallire nessuno. Ancora e quindi nemmeno l'industria dell'auto. In pregilo più 8,77%, l'Espresso più 8,20%, Telecom più 8,20%. Io spero che ci siano delle spiegazioni per questi rialzi record. Beh, per quanto riguarda in pregilo, è tutta la seduta in attesa dei conti che sono stati diffusi in questi minuti alla chiusura dei mercati, e soprattutto il titolo beneficia ormai da due giorni dall'attesa del rilancio delle grandi opere infrastrutturali, soprattutto del ponte sullo stretto di Messina, dopo che ieri il ministro Altero Matteoli ha spiegato che la stragrande maggioranza delle opere previste può partire entro il 2009, citando proprio anche il ponte sullo stretto, attese rilanciate anche dal presidente dell'ANAS Pietro Ciucci, anche se la riunione del CIPE sulle infrastrutture che era prevista per domani nel frattempo è stata rinviata. E ha beneficiato dell'attesa dei conti che saranno pubblicati domani anche Telecom Italia, che oggi ha guadagnato oltre l'8% a 0,96 euro. Secondo indiscrezioni di stampa i risultati del 2008 potrebbero essere migliori delle attese. Inoltre il mercato scommette oggi su una distribuzione di un dividendo attorno a 5 centesimi per azione. E il titolo Telecom ha beneficiato anche delle buone notizie per il settore arrivate dai conti di Telefonica, che tra l'altro è anche azionista di Telecom, che nel quarto trimestre del 2008 ha registrato un buon recupero dell'utile netto nonostante un calo sull'intero esercizio, ed è andata bene anche in borsa oggi la controllata Telecom Italia Media, che ha diffuso conti in perdita ma migliori delle attese, e soprattutto ha annunciato una gara per la cessione degli asset digitali. Allora, questo insomma, giustifica in pregiro l'Espresso e Telecom, tutte le società che domani daranno i conti complessivi, visto che oggi appunto T-Media e Telefonica li hanno diffusi. Dell'Espresso già ieri abbiamo detto, una parte del rialzo si chiama anche effetto di Benedetti Presidente, di in pregiro spiegavi giustamente il CIP. Passiamo adesso, anzi lo facciamo dopo il GR perché meritano un approfondimento apposito, al settore bancario. Intanto vi do i titoli: Intesa più 6,20, Unicredito più 6%, Intesa è tornata praticamente a 2 euro, 1,99 euro, Unicredito è tornato a 1 euro, 1,01 euro, per carità ne valeva 6 un anno fa, però sempre meglio 1 euro che 89 centesimi. Italcementi più 5,6, Banco Popolare più 3,7, Luxottica più 3,4, Alleanza più 3,2, Bulgari più 3,1%. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Concludiamo quindi l'approfondimento di borsa per poi passare al tema della riforma della regolamentazione dello sciopero nel settore dei trasporti. Allora, Paolo Paronetto, i bancari e gli assicurativi, dicevamo, tutti in rialzo, con Unicredito che torna sopra un euro per azione, Intesa che vede 2 euro, rialzi tra il 3 e il 6%. Oggi banche e assicurazioni hanno guidato il rialzo dei listini in tutta Europa. Il sottoindice europeo delle banche ha guadagnato oltre l'8%, mentre quello delle assicurazioni è salito di quasi il 10%. Per quanto riguarda le banche, i rialzi più consistenti sono stati messi a segno da UBS a Zurigo, che ha guadagnato il 16%, oltre che dalle banche inglesi, in particolare Royal Bank of Scotland ha guadagnato il 23% e Lloyds il 30%. Per quanto riguarda UBS, il titolo ha beneficiato della notizia dell'arrivo del nuovo amministratore delegato, Oswald Grubel, che è stato amministratore delegato della concorrente Credit Suisse e proprio artefice del rilancio e della ristrutturazione di Credit Suisse. Quindi UBS ha annunciato questa nomina proprio come una mossa per ridare credibilità al gruppo e tornare alla solidità passata. Per quanto riguarda invece Royal Bank of Scotland, pur avendo comunicato che deve aver chiuso il 2008 con la perdita più consistente mai mai registrata da una società britannica. Il titolo dell'istituto ha beneficiato delle garanzie arrivate dal governo inglese su 325 miliardi di sterline di asset tossici e un'iniezione di capitale, proprio anche questa da parte dello Stato, di 13 miliardi. La società è praticamente nazionalizzata e quindi gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo dopo i rinnovati timori di fallimento. E per quanto riguarda invece le assicurazioni, come annunciavi tu prima, proprio Allianz a Francoforte ha guadagnato il 10%, nonostante i conti 2008 chiusi in rosso, ma soprattutto per la conferma del dividendo, anche se a una cifra inferiore rispetto a quello pagato sull'esercizio precedente, e i titoli, la corsa di Allianz ha spinto tutto il listino, anche a Piazza Affari hanno guadagnato terreno dopo giorni di debolezza, sia Generali, che è salita del 2,18%, sia Allianz di oltre 3%. Grazie Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore. Wall Street continua a guadagnare, ma adesso solo un punto percentuale. Alcune risposte brevissime, poi passiamo alla multa ai pastai e poi agli scioperi. Allora, molti di voi spesso ricordano che il ministro Tremonti, quando era ministro e precedente governo, utilizzò strumenti finanziari strutturati, la cartolarizzazione. È vero, dopodiché è stato nostro ospite anche prima di tornare a fare il ministro, Tremonti, attraverso due libri soprattutto, ha rivisto un intero approccio alla finanza strutturata e di questo gli va dato atto, quindi è inutile continuare a parlare del fatto che quando era... E certo, ha fatto le cartolarizzazioni, adesso però la vede in un altro modo e prima ancora di diventare ministro. Primo aspetto, così chiudiamo una volta per tutte questa classica accusa. Altro aspetto, il governatore Fazio aveva ragione, faremo una puntata se volete su questo. Fazio si rese, a nostro avviso, abbiamo avuto lunghe puntate su questo, indifendibile sul principio della nazionalità della banca, oltre che tutto quello che emesse dalle intercettazioni. Se poi vogliamo dire che l'idea dell'allora governatore Fazio di puntare più sulle banche medie e di non favorire più la grande fusione tra grandi banche poteva essere giusta, sì, se ne può ragionare, lo faremo con chi a suo tempo lo difese, con chi a suo tempo invece lo attaccò. Va benissimo come spunto di riflessione. Adesso cambiamo veramente tema. Ah sì, l'ultima risposta, anche andrebbero cambiati anche i giornalisti oltre che i manager, i giornalisti che in questi anni hanno dato ragione, hanno esaltato e osannato quei manager. Sì, probabilmente è vero, nel delirio, nella deriva collettiva della finanziarizzazione dell'economia ci sono stati anche giornalisti. Faccio solo notare che le responsabilità sono un po' diverse, cioè gli stipendi milionari e la bancarotta bancaria l'hanno creata i manager, i giornalisti, diciamo, su questo al massimo hanno preso una svista o sono stati troppo supini, ma non hanno certo generato poi il disastro a cui stiamo assistendo. Cambiamo tema, la multa dell'antitrust ai produttori di pasta. Allora, del caro pasta abbiamo parlato più volte, dei rialzi che le associazioni dei consumatori definivano ingiustificati, visto che nel frattempo calava il prezzo della materia prima, l'anno scorso soprattutto il prezzo del grano nella parte finale era sceso e invece la pasta continuava a salire. Oggi, al di là di qualunque polemica, l'antitrust ha deciso che in Italia si è creato un cartello, ossia vi è stata un'intesa restrittiva della concorrenza finalizzata a concertare gli aumenti del prezzo di vendita della pasta secca di semola da praticare al settore distributivo. 12 milioni e mezzo di euro di multa a varie società, tutte le società principali: Amato, Barilla, Colussi, De Cecco, Divella, Garofalo, Nestlé, Rummo, Zara, Berrutto, Del Verde, Granoro, Riscossa, Tandoi, Cellino, Chirico, De Matteis, Di Martino, Fabianelli, Ferrara, Liguori, Mennucci, Russo, La Molisana, Tamma e Valdigrano. E poi multata anche l'Unione Industriali Pastai Italiani. E allora l'antitrust, che ha detto che questo cartello con i 26 produttori è durato dall'ottobre 2006 fino al 1 marzo 2008, quando il prezzo della pasta complessivamente è cresciuto del 51%, tra l'altro in buona parte trasferito al consumatore, visto che il prezzo finale, questo è il prezzo della pasta ai distributori, quello che poi l'abbiamo pagata noi è stato un più 36%, Questa è l'accusa e la multa dell'antitrust. La risposta del presidente dei pastai, Massimo Menna, che è anche proprietario del pastificio Garofalo, intervistato dalla nostra Anna Marino. Non esiste e non è mai esistita alcuna intesa. L'aumento che c'è stato dei prezzi è stato un aumento che ogni azienda ha deciso in maniera indipendente ed era un aumento ampiamente giustificato, anzi praticato, parlo per la mia azienda e vale anche generalmente questo discorso, in maniera anche contenuta rispetto a quelli che sono stati i picchi di aumenti delle materie prime, che sono stati picchi mai visti prima. Le materie prime sono più che triplicate. Che cosa farete adesso? L'associazione farà ricorso nelle sedi più competenti, e così anche la mia azienda e penso anche le altre aziende. Per voi è un fulmine a ciel sereno? È qualcosa che non accettiamo, che non ha fondamento, ma non è un fulmine a ciel sereno perché viviamo ormai da mesi continui attacchi demagogici sulla pasta. Io direi quasi irresponsabili anche. E per quanto riguarda la vostra difesa, su quali punti verterà? Da parte dell'Unipi, adesso lo vedremo con i legali, ma diciamo che la difesa è contenuta anche nello stesso testo dell'autorità, che nella sua istruttoria ha verificato quali sono stati gli aumenti e i tempi in cui questi aumenti sono stati praticati dalle varie aziende e ha rilevato valori di aumenti completamente diversi da un'azienda all'altra e in tempi completamente diversi, e quindi ha evidenza che non c'è stato nessun accordo. Purtroppo di questa cosa non è stato tenuto conto. Gli aumenti che si sono verificati ultimamente, da che cosa sono giustificati? Gli aumenti sono giustificati dal fatto che nella seconda metà del 2007 e poi nel 2008 si è verificato per il grano duro, per ragioni potremmo dire mondiali, per diverse ragioni, incrementi del costo del grano duro. Sono aumentati anche i costi di produzione? Certamente anche i costi di produzione sono aumentati, poi ci sono anche i costi della filiera, no? Anche i costi poi della distribuzione. Questi aumenti, che sono così demagogicamente oggetto di continue dichiarazioni da parte di altri, che cosa hanno provocato al consumatore? Un aumento di 8 euro all'anno. In Italia il nostro settore, il settore della pasta, è un settore ad altissima concorrenza. Tutti i produttori cercano di produrre di più. Per produrre di più mettono in campo varie politiche, fra cui la principale è la leva del prezzo. In più stiamo parlando sempre di valori molto bassi, perché parliamo della pasta, è un piatto di pasta condito, cioè quindi con la salsa, con cucinata, eccetera, costa la metà di una tazzina di caffè. Va bene, vedremo poi quale sarà la risposta all'antitrust dei pastai, appunto dopo questa multa da 12 milioni e mezzo complessivi di euro. In diretta, ultima parte del programma. Domani al Consiglio dei Ministri la bozza di riforma dello sciopero nei trasporti pubblici, quella messa a punto dal Ministero del Lavoro. Le novità fondamentali: i sindacati che non raggiungono il 50% dovranno indire uno sciopero solo dopo aver indetto un referendum consultivo tra i lavoratori. Ogni lavoratore dovrà dichiarare preventivamente l'adesione allo sciopero. E poi viene introdotto per alcuni servizi essenziali lo sciopero virtuale. Viene introdotto lo sciopero virtuale che per alcuni servizi essenziali potrebbe essere obbligatorio, ossia chi sciopera rinuncia alla busta paga di quel giorno ma va a lavorare e la retribuzione viene devoluta insieme a una somma che versa l'azienda a scopi sociali. Professor Carlo Della Ringa, docente di economia del lavoro alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, ex commissario straordinario dell'ISFOL e presidente dell'ARAN, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, sentiamo la risposta secca che è arrivata dal leader della CGIL Epifani, che ha detto: attenzione, il governo non applichi forzature. Il governo stia attento. Se c'è da aggiustare qualcosa di una normativa pure rigida che abbiamo, eventualmente questo lo si può vedere. Se si vogliono introdurre forzature che limitano poteri, prerogative, allora è un'altra questione. Così Guglielmo Epifani e il ministro Sacconi al microfono del nostro Andrea Viali, dopo aver ribadito tra l'altro che non c'è nessuna forzatura ma non sono accettabili i veti, ha chiarito che le ipotesi di modifica erano frutto di un confronto con le parti sociali e quali siano anche le modifiche inserite rispetto a questo confronto. Beh, cambia rispetto alle linee guida sulla base delle quali abbiamo fatto la consultazione con le parti sociali. il fatto che ci concentriamo essenzialmente nel settore del trasporto e quindi, come ho detto, nel diritto alla mobilità. Stiamo in queste ore valutando questo aspetto. Il referendum potrebbe venire meno in presenza di un requisito minimo di rappresentatività degli attori proclamanti. Lo sciopero virtuale può essere reso obbligatorio solo in alcuni ambiti particolarmente delicati del trasporto. Credo che ci sia una larga convergenza con la gran parte delle organizzazioni sindacali, oltre che dei datori di lavoro, perché non a caso abbiamo recepito molte delle indicazioni che sono venute in modo particolare dalla CISL, dalla UIL, dall'UGL, dalla CONFSAL, dalle altre organizzazioni. Mi auguro che la CGIL dia almeno un giudizio articolato. Così il ministro Sacconi, e il garante sugli scioperi Antonio Martone ha detto va bene l'iniziativa del governo, ossia riregolamentare gli scioperi nei trasporti, però attenzione, adottate con gradualità questi interventi. Io credo che il governo debba fare debba operare per cercare di realizzare le maggiori convergenze possibili. Rimane il principio che nessuno ha un diritto di veto e poi l'ultimo che deve dire la voce è il Parlamento. Perché? Perché è qui che risiede la sovranità popolare e su queste cose, su leggi di questo tipo, la sovranità popolare è importante, essenziale. Quindi la Commissione che ha fatto tramite la mia voce, ha fatto delle indicazioni che si muovono sulla stessa, anzi molte di quelle che sono recepite nella proposta di disegno di legge provengono anche dalle indicazioni della Commissione, con una certa gradualità, una certa ragionevolezza. Questo è il punto, io penso che su questo l'accordo si possa realizzare. E poi la posizione del Presidente Fini, Presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha detto occorre verificare l'intera disciplina e riflettere sulla tenuta della disciplina attuale. A mio avviso è sempre più urgente avviare una riflessione sulla tenuta della vigente disciplina di settore per individuarne lacune e prospettare ipotesi di adeguamento alla nuova realtà. Il diritto di sciopero, che secondo l'articolo 40 della Costituzione si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano, non può compromettere oltre misura il godimento di altri diritti della persona ugualmente garantiti in Costituzione, come il diritto alla salute, alla sicurezza, all'istruzione, all'assistenza e previdenza sociale, alla libertà di circolazione e di comunicazione, all'effettiva tutela giurisdizionale delle proprie ragioni. Non si tratta ovviamente di soffocare il diritto di sciopero, ma di armonizzarlo con l'esercizio degli altri diritti di tutti i cittadini in un'opera di bilanciamento che deve tener conto dell'evoluzione sociale. Allora, professor Della Ringa, queste le posizioni politiche, intendo anche quella della CGIL, diciamo, di alcune organizzazioni sindacali e del governo. La cosa che più gli piace, visto che stiamo parlando solo dello sciopero nel settore dei trasporti, che ha delle sue criticità perché deve garantire alcuni servizi essenziali, non è uno sciopero come gli altri, quali novità la convincono di più, visto che lei ha lavorato a lungo anche nel mondo della pubblica amministrazione, dipendenti pubblici, e che cosa ha capito dello sciopero virtuale? Perché molti ascoltatori chiedono come sia possibile ipotizzare uno sciopero virtuale in cui io rinuncio alla busta paga, però devo andare al lavoro. Sì, parliamo dopo dello sciopero virtuale, perché è una tipologia che va applicata solo in alcune circostanze, no? Nella maggioranza dei casi lo sciopero continuerà ad essere una astensione dal lavoro, come comunemente la gente lo capisce. Ma anche su questo si interviene, dove in un settore particolare, quello dei trasporti, che è quello in cui molto spesso i clienti erano gli unici a pagare i costi, quando invece i costi dovrebbero essere pagati da chi è responsabile del conflitto che poi va a finire in uno sciopero. E soprattutto in un settore dove spesso prevalgono piccoli sindacatini, i quali però organizzano dei lavoratori o gruppi di lavoratori necessari per far svolgere l'intero servizio, e quindi scioperi selvaggi che bloccano tutto. Questo succede soprattutto nei trasporti, quindi giusto andare con gradualità, giusto incominciare dai trasporti, anche perché, come ha detto giustamente il Presidente Fini, bisognerà contemperare le due esigenze. La Costituzione è molto chiara nel garantire il diritto di sciopero. Deve essere disciplinato nell'ambito delle leggi. Ecco, questo è un punto fondamentale della Ringa. Cioè, si dice, se tu non hai più del 50% non rappresenti più del 50% dei lavoratori, devi fare un referendum. Non puoi fare uno sciopero se rappresenti il 5 o il 10% della categoria nei trasporti, che di fatto blocca tutto, perché se inizia a mancare un treno ogni 10, un aereo ogni 10, un tram ogni 10, però tu rappresenti solo il 10%, ho capito bene? Sì, ho capito bene, sì. Anche se la cosa dovesse discussa è molto complicata. In ogni caso, dicevo che questo senz'altro è la parte più importante, cioè lo sciopero nei servizi pubblici come il trasporto è talmente delicato che deve essere una decisione presa a maggioranza dei lavoratori, non da piccoli gruppi. Ecco, questo naturalmente va contemperato col diritto individuale, quindi a farlo solo per i trasporti mette a fuoco bene il problema e probabilmente si riesce a contemperare le due esigenze. Dopodiché naturalmente va pensato, beh, questo nessuno l'ha detto ancora, appunto noi abbiamo in mente l'Alitalia, i piloti, i controllori di volo, gli assistenti di volo, tanti gruppi organizzati in comparti diversi. Ora, in un certo momento, ecco, quando i piloti dovranno decidere di fare sciopero, basterà che sia la maggioranza dei piloti a decidere o la maggioranza dei lavoratori dell'Alitalia? Questo sarà il punto fondamentale che dovrà essere deciso, perché già nella Costituzione della CAI si era tentato da parte del governo di mettere tutti in una specie di gran calderone sindacale, ma i piloti non hanno voluto questo, quindi questo è un problema molto delicato. Certamente non potrà, lo sciopero dei piloti non potrà essere dichiarato da un sindacatino che non rappresenta nemmeno la maggioranza dei piloti. Questo va bene, insomma, è già un passo avanti, ma il problema importante è quello che dicevo prima, e quindi si tratta di vedere proprio come verrà applicato. Quindi problemi di costituzionalità, problemi di applicazione. Sciopero virtuale. In casi specifici, pare che ci sia già, mi dicono, è un caso di elicotteri che svolgono funzioni delicatissime e essenziali, funziona già così. Va esteso ad altre categorie, non a tutte, no? E funziona in questo modo, che l'opinione pubblica probabilmente non capisce fino in fondo. Cosa dice? Tu dichiari lo sciopero, però vai a lavorare, in modo che il servizio c'è. Il danno in cosa consiste? Che tu, la tua stipendio viene trattenuto. L'azienda ci mette il doppio, il triplo della trattenuta del tuo stipendio, e queste somme vengono destinate a finalità sociali, in modo tale che lo sciopero lo paga chi è responsabile dello sciopero. Certo, i lavoratori potrebbero dire, ma io insomma, se non faccio un danno cosa ci guadagno? Infatti il danno non lo devi fare, però mi sembra che una cosa debba essere detta a questo proposito. Una cosa complementare che possa andare nella direzione anche di dare qualche soddisfazione ai lavoratori consisterebbe che i media dessero grande pubblicità a questi scioperi, in modo tale che i lavoratori, pur andando a lavorare, sappiano che l'opinione pubblica è informata delle loro ragioni. Staremo a vedere. Comunque chiarissimo il punto, delicato, non ci può essere una minoranza quanto rappresentatività del sindacale a bloccare il comparto dei trasporti. Sappiamo che poi basta anche il 10% in meno per bloccare un intero comparto, occorre essere rappresentativi se si indice uno sciopero, e poi sullo sciopero virtuale il fondo sociale in cui il datore di lavoro partecipa in maniera doppia rispetto al dipendente. Grazie al professor Carlo Della Ringa, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.